Un luogo, una storia. Di Daniele Biacchessi. Un luogo, una storia attraversa l'Italia raccontando storie sparse tra le città, i piccoli borghi, i parchi, la natura incontaminata. E oggi ambienta alcune storie in luoghi particolari che si sono trasformati negli anni e nel tempo in set cinematografici di importanti film italiani e stranieri. Si tratta di vere e proprie location a cielo aperto. Ogni angolo del nostro paese è stato visitato dalla macchina da presa dei grandi registi del cinema internazionale. E partiamo dal nord, da Milano e Torino, location amate da grandi registi che vi hanno girato film come L'Adrenalinico di Italian Job di Peter Collinson, Il Borghese, Io sono l'amore di Luca Guadagnino e La migliore offerta di Giuseppe Tornatore. Davvero sorprendente, non crede? È falso. Pronto? Chi parla? Clary Ibbetson. Non ho ancora deciso, però vorrei far fare una, come dite voi, valutazione. Signore e signori, è un vero piacere per me presentarvi l'Otto 231. E Miss Claire, che altro può dirmi sul suo conto? Ha una stranissima malattia. Parlare le parla, ma attraverso una porta chiusa. Una porta chiusa? Vuol dire che non l'ha mai vista in faccia? Non solo lui, nessuno la vede. Lei è qui, Miss Ibbetson? I sentimenti umani sono come le opere d'arte, si possono simulare. Perché evita sistematicamente di incontrarmi? Io invece volevo dirle di non occuparsi più del mio patrimonio. Mi mandi il conto delle spese. Buonanotte. No! Claire, mi dica, che è successo? E com'è vivere con una donna? Esattamente come partecipare a un'asta. Non sai mai se la tua offerta sarà la migliore. Quando pensi che con una donna è fatta, hai già perso il senso della strategia. Ho bisogno di vederla. Andate via! Claire! Chi è veramente? In ogni falso si nasconde sempre qualcosa di autentico. Anche i caratteristici paesi della Riviera Ligure sono stati protagonisti in diverse pellicole dei grandi del cinema, tra questi The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, che vede alcune scene girate tra Portofino, le Cinque Terre e Chiavari. Era andato a scuola di scienze ambientali, cose così, e si era impantanato nel prestito scolastico. Inoltre alla madre serviva un triplo bypass urgente. Sì, una situazione orribile. Sì. Ma lo introducemmo nel mercato nel momento giusto, scelse le azioni giuste, gli abbiamo dato le giuste direttive. E boom, in una notte, tutta la sua vita cambiò. Cioè, riuscì a portare sua madre nel miglior ospedale di New York. Non funzionò per lei, perché sfortunatamente morì, però gli abbiamo dato un'opportunità. Capisce che voglio dire? Si tratta solo di conoscere le persone giuste e in una notte la tua vita cambia. Quanto guadagna uno stagista? Quanto guadagna uno stagista in un affare del genere? Ecco, in quella situazione, insomma, in quel particolare affare, un solo affare, oltre $500,000. Tra castelli, paesi caratteristici anche in Emilia-Romagna, sono stati ambientati alcuni film, oltre alla serie di Peppone e Don Camillo. A Brescello ricordiamo 900 di Bertolucci, girato tra le province di Parma, Cremona e Reggio Emilia. Verdi è morto! È morto Verdi! Papà! Oh, è nato Alfredo! Alfredo! Si chiamerà come me! Olmo! Vieni avanti. Ricordati questo. Imparerai a leggere e a scrivere. Ma resterai sempre Dalgo Olmo, figlio di paesani. Morto di fame. Thank you. Città d'arte e patrimonio UNESCO, Firenze non è passata inosservata agli occhi di registi italiani e stranieri che l'hanno immortalata in film come Un attimo, una vita di Sidney Pollack, Ritratto di Signora di Jane Campion e Obsession di Brian De Palma. Parla, scema. Dì a tuo padre che vuoi che ci mandi i soldi. Papà, per favore, mandaci i soldi, ti prego. Portaci via da questo posto e a me e alla mamma. Molto bene. Proprio quello che ci vuole. Chiama la polizia. Dovrò ritirare la mia quota dal progetto Ponchartrain. Lo so, lo so. E solo a pensarci scoppio di rabbia. Ma guarda, io non mi approfitterò di questa situazione. Porteremo a termine il piano come tu l'hai pensato, con un'enormità di verde. Piace anche a me il verde. Ma se ce li metti tutti i tuoi soldi non devi eseguire il mio progetto, ne puoi fare quello che vuoi della terra. Michael, lo farò come tu l'hai concepito. Grazie, Bob, te ne sono grato. Ma poi manca una settimana per la stipula. Se la polizia recupera i tuoi soldi, sarà tutto come prima. Adesso bisognerà andare alla banca. Sì, li ritiro io i soldi. Quantum of Solace, capitolo della serie di James Bond, è stato girato anche in altre località, tra cui Siena, durante il Palio e poi a Torbole e Tremosine, sul lago di Garda. Solo un bastardo senza cuore non vendica la morte della persona che amava. Non credo che ai morti interessi la vendetta. Abbiamo dei conti in sospeso con quest'uomo. La prima cosa che dovrebbe sapere di noi è che abbiamo uomini da ogni parte. Che organizzazione hanno, Bond? Sono ovunque e noi non sappiamo niente di loro. È la risorsa più preziosa che ci sia al mondo. Dobbiamo controllarne la maggiore quantità possibile. Verifica nome, Dominic Green. È una persona di estremo interesse. Abbiamo già cominciato a destabilizzare il governo. Pensa chi è Green e vuole che collaboriamo con lui. Sì, dovremmo trattare solo con persone per bene. Salga. D'accordo. Stia attento, signor Bond. Non verrà a letto con lei a meno che non le dia qualcosa che vuole a tutti i costi. Qualcuno vuole ucciderti. Comunque siete una bella coppia. Siete entrambi, come si può dire, merce avariata. Tutti e due usiamo Green per arrivare a qualcun altro. Hai perso qualcuno? Sì. Hai preso il colpevole? No, ancora no. Dimmi quando ci riesci. Voglio sapere cosa si prova. Va eliminato. Se non distingue amici e nemici, deve ritirarsi. Lei è l'unico di cui posso fidarmi. James, muoviti. Vorrei poterti liberare, ma la tua prigione è qui dentro. Non devi preoccuparti per me. Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli, ambientato tra il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Castelnuovo dell'Abate in provincia di Siena, le colline di Assisi e il Duomo di Monreale in provincia di Palermo. Ed eccoci in Abruzzo, i cui panorami mozzafiato sono stati immortalati in film come The American di George Clooney e lo storico Lady Hawk di Richard Donner del 1985. Ma questo è niente. C'era una donna con la pelle come di porcellana e con profondi occhi blu, come quelli di un uccello. E la sua voce, dolce come quella di un angelo. Ha parlato? Che cosa ha detto? Le ho chiesto se stavo sognando. E lei ha detto di sì. Ma non sono pazzo, devi credermi se ti dico queste cose. Ma io ti credo. Io credo ai sogni. Ma certo. Questa signora ti ha detto come si chiama? No, non me l'ha detto, perché? Beh, si dà il caso che ella frequenti i miei sogni. E sarebbe bello se potessi chiamarla per nome e fingere di averla già incontrata. Io aspetto da tanto tempo di vederla. Ora dormiamo un po'. Il falco si avvertirà se si avvicina qualcuno. Roma è poi uno dei luoghi più amati dai registi che vi hanno girato circa 130 pellicole, dai film neorealisti a quelli più comici di Alberto Sordi e Carlo Verdone. Ci regalano un'immagine indimenticabile della capitale anche i film premio Oscar La grande bellezza di Sorrentino, La dolce vita di Federico Fellini, regista che qui ha girato altri capolavori. Tra i cult movie anche non dobbiamo dimenticare Il giro in Vespa di Vacanze romane, Gli inseguimenti tra le chiese, Castel Sant'Angelo di Angeli e Demoni o le stupende scenografie di To Run With Love di Woody Allen. Siamo a Roma, io me ne sto qui e da qui vedo ogni persona. In questa città nascono tante storie. Senti, ci hanno dato una camera eccezionale. Hai sposato uno molto in gamba. Io come quoziente di intelligenza ho 150-160. Stai calcolando in euro. In dollari è molto meno, tesoro. Congratulazioni, e c'è tutto pagato. Sono tutta tua, tutta per te. Ma guardi che ci deve essere un errore. Io sono qui per soddisfare i tuoi sogni. Ho vissuto a Roma per un anno quando avevo la tua età. Ah, certo, questa era proprio la mia strada. La posso invitare per un caffè? La mia amica si è appena lasciata col suo ragazzo e io le ho detto che può stare da noi. È in gamba, è divertente. Gli uomini, sai, la adorano. Credo che sia per l'energia sessuale che emana. Io ho sempre avuto una gran voglia di andare a letto con una donna. Quando finalmente l'ho fatto è stato molto intenso. È speciale, no? Ciao, faccio tanti, ciao. Ciao, papà. Ma chi vi prende? Ma chi è? Siete avanti? Sei famoso! Che cosa ha mangiato a colazione? Ma Lui è Michelangelo. Ciao. Lui è mio padre. Piacere. Senza i sindacati il lavoratore sarebbe oppresso, schiacciato. Il figlio è comunista, il padre fa il beccamorto. La madre dirige il lebrosario. Un evento televisivo che noi siamo in grado di documentarvi in diretta dal primo all'ultimo gesto. Lavorare tutto il tempo sdraiati sulla schiena, non lo posso immaginare. Io sì. Non lo voglio fare qui. Se ti devi scopare il ragazzo della tua migliore amica, che importanza ha la sede in cui avviene? Tu le donne non le capirai mai. Più che dimostrato. Non è carino trovarsi in un posto per svago? No. Napoli è stata la location di film importanti del cinema italiano, Matrimonio all'italiana, i film di Totò e quelli dei fratelli De Filippo, Gomorra, tratto dal libro di Roberto Saviano. Azienda è in grado di smaltire i rifiuti che la sua fabbrica produce in un anno. 800 tonnellate. 800 tonnellate. Non è un problema. Ci spostiamo in Basilicata, in luoghi come Matera e Craco, sette di pellicole italiane e straniere come King David e La passione di Cristo, di Mel Gibson, a Matera. Gesù. Gesù! Hai fame? Sì. È un tavolo molto alto. Perché? Per un uomo ricco. Gli piace mangiare in piedi? No, preferisce mangiare così. Tavolo alto, sedie alte. Beh, quelle non le ha ancora fatte. Non gli potrà mai piacere. Eh? Oh no, non ci provare. Togliti quel grembiule sudicio prima di entrare. Oh, e lavati le mani. Pellicole straniere italiane anche per la Sicilia, location amata da registi come Luc Besson e Francis Ford Coppola. Ci sono poi film girati in diversi luoghi che raccontano un po' tutta l'Italia, a iniziare dalla pellicola premio Oscar Ieri, Oggi, Domani di Vittorio De Sica, articolata in episodi ambientati nelle città di Napoli, Roma e Milano. C'è poi Il talento di Miss Ripley di Anthony Minghella, che vede tra le location Roma, la penisola sorrentina, Procida, Ischia, il Casinò di Anzio, Venezia, Napoli, il Monte Argentario, Palermo e Livorno. Che grilli! Sono Tom. Tom Ripley. Tom Ripley? Eravamo a Princeton insieme. E ci conoscevamo? Salve. Vabbè, io sì, quindi penso che anche tu. Sì, Tom viene a stare da te. È simpatico. Ma a te sono tutti simpatici. A te sono tutti simpatici. Vivi in Italia e poi tu stai a casa di Dickie. Ti metti i suoi vestiti e il conto lo paga suo padre. Esattamente che facevi a New York? Firme false, dire bugie, impersonare praticamente chiunque. Cosa? Ho sempre creduto molto meglio essere un falso qualcuno che un'autentica nullità. Aiuto! Vieni a salvarlo! Vieni a salvarlo! Vorrei sapere come mai quando gli uomini giocano, giocano sempre ad ammazzarsi. Ho pensato a te. Così tanto. Ognuno deve avere un suo talento. Qual è il tuo? Infine i palazzi nobiliari e la sua storia hanno reso Venezia l'ambientazione ideale per numerose pellicole cinematografiche come Otello di Orson Welles, Il mercante di Venezia con Al Pacino, Nikita, The Tourist, Indiana Jones e L'ultima crociata, numerosi episodi di 007, Morti a Venezia. Ecco l'Italia, dunque, i suoi mille volti. L'Italia dei parchi naturali, quella delle colline che degradano verso il mare azzurro. L'Italia delle città d'arte, dei borghi, l'Italia delle tradizioni e del folklore secolare. Restano ancora oggi il luogo ideale di un set cinematografico, il luogo dove la realtà si trasforma nei sogni di una pellicola.